Europa 24. In primo piano la crisi ucraina. Nel giorno della telefonata fra il presidente russo Putin e quell'ucraino Poroshenko, come avete sentito poco fa, che sembra aver aperto la strada per un cessate il fuoco, le parole da Tallinn in Estonia di Barack Obama. Le sanzioni applicate finora hanno avuto un effetto reale sulla Russia, ha detto il presidente americano. E nuove sanzioni sarebbero in arrivo da Bruxelles. L'Europa studia nuove sanzioni contro la Russia per il suo ruolo destabilizzante nella crisi ucraina. La Commissione dovrebbe renderle note venerdì, al netto delle novità che in queste ore stanno arrivando da Kiev e Mosca. In una conversazione telefonica, infatti, i presidenti Poroshenko e Putin avrebbero concordato sulle misure che dovrebbero contribuire a raggiungere una tregua rapida e duratura. Secondo il quotidiano spagnolo El País, comunque, le sanzioni allo studio in queste ore prevederebbero ulteriori restrizioni sui mercati di capitali, la compravendita di sistemi d'arma e di altre tecnologie fondamentali per il mercato energetico, una stretta su altri settori e infine la raccomandazione di escludere Mosca da eventi culturali, economici e sportivi internazionali, anche se, aggiunge il Paese, questa indicazione potrebbe essere riservata ad un eventuale passo successivo, se ci sarà. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Sull'utilità, sull'efficacia delle sanzioni nei confronti della Russia, ma anche sulle conseguenze economiche delle sanzioni, Sergio Nava ha intervistato l'eurodeputato Antonio Panzeri del PD, membro della Commissione Affari Esteri. Ho l'impressione che ci voglia un po' di tempo. Le sanzioni sono importanti, ovviamente producono anche una serie di problemi che noi dobbiamo avere il coraggio di dire anche al popolo europeo, perché come si sa, nel momento in cui si stabilisce che c'è una sanzione nei confronti di un paese grande, importante come la Russia, significa che anche le nostre merci non possono più essere esportate. Questo crea anche dei problemi dal punto di vista economico e produttivo, oltre alla crisi che abbiamo già sulle spalle. Questo è bene che l'opinione pubblica sia informata di questo, ma è chiaro che non possiamo deflettere dal fatto che dobbiamo immaginare l'Ucraina in piena integrità territoriale e nello stesso tempo creare appunto le condizioni perché si possa aprire un ragionamento molto più approfondito e molto più serio. Capisco che il tema della imprevedibilità di Putin sia un tema importante. Dobbiamo però avere l'accortezza di evitare sostanzialmente una sorta di isolamento dell'orso russo sostanzialmente. E come risposta a medio termine all'embargo russo su prodotti europei, la Commissione europea, su proposta del responsabile all'agricoltura Dacian Ciolos, ha confermato la sua intenzione di fornire un supplemento di 30 milioni di euro di fondi UE per programmi di promozione dei prodotti agricoli a partire dal 2015, in aggiunta ai 60 milioni già previsti annualmente nel bilancio della PAC. Borse positive questa mattina in Europa, nel giorno in cui arrivano altri dati negativi sull'economia del vecchio continente. Il dato composito non fa altro che ricalcare quanto già emerso due giorni fa. L'indice PMI mostra un'eurozona infrenata. Flessioni in Germania, che comunque resta sopra quota 50 punti, mentre Francia e Italia sono in contrazione. Cattive notizie sono buone notizie, dice a bassa voce qualche analista, pensando a quanto farà domani la BCE. Perché più i dati sono deludenti, più ci si aspetta che l'euro tower intervenga. Magari con quel quantitative easing in grado di stimolare la domanda interna e rafforzare le esportazioni. Misure tanto più urgenti se si considera il mercato del lavoro, ambito nel quale le cattive notizie si accavallano. Il segretario generale dell'OCSE, Gorria, ha presentato questa mattina le previsioni sull'occupazione. Circa 45 milioni di persone sono senza lavoro nell'area, quasi 12 milioni in più rispetto a prima della crisi. In alcuni paesi la disoccupazione persistente si è tradotta in un aumento di quella strutturale, che potrebbe non essere riassorbita nemmeno con il ritorno alla crescita. In Italia la disoccupazione continuerà a crescere nel 2014, tanti giovani senza occupazione, mentre il 70% dei neoassunti ha un contratto a tempo determinato. Per lo più le condizioni sono stressanti, poca la sicurezza e protezioni sociali ridotte. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.